Dal Vangelo secondo Marco, dopo che i 5.000 uomini furono saziati, Gesù subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva. Quando ebbe congedato la folla, andò sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli da solo a terra. Vedendoli però affaticati nel remare perché avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: è un fantasma, e si misero a gridare perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò a loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. E salì sulla barca con loro e il vento cessò. E dentro di sé erano fortemente meravigliati. Oggi il Signore presenta una scena molto, molto bella perché il Signore vuole rimettere gli apostoli al riparo dalla folla, e quindi lui si mette a congedare la folla e lascia che gli apostoli, i discepoli, salgano sulla barca e vadano in un luogo a riposarsi. E quindi Gesù, dopo che ha congedato la folla, va a pregare sul monte. Diverse volte vediamo Gesù in preghiera. Che bello sapere che Gesù aveva questa relazione con suo padre molto forte, è un grande insegnamento per noi. E poi viene la sera e Gesù da lontano vede la barca dei suoi discepoli che è in mezzo al mare e vede i discepoli, gli apostoli, in difficoltà. Hanno la difficoltà a remare perché? Perché avevano il vento contrario. Però noi diciamo: ma Gesù, ti accorgi che questi apostoli sono affaticati? Perché non intervieni subito? Qui dice: vedendoli affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò verso di loro. Perché Gesù aspetti il finire della notte? Cioè, ti sei accorto che stanno male, che fanno fatica a remare? Perché non intervieni subito? E questo è il modo di procedere del Signore, anche nella nostra vita. Il Signore non interviene subito, vuole che prima noi sperimentiamo il bisogno di Lui, il bisogno che l'uomo ha di rivolgersi a qualcuno di superiore, il bisogno di misurare le proprie forze, il bisogno di aggrapparsi e di credere che c'è qualcuno che ci può salvare. E allora interviene sul finire della notte, va verso di loro, però come va verso di loro? Va verso di loro non in una maniera eclatante, non in una maniera, o meglio, così chiara. Infatti viene scambiato per un fantasma e quindi va incontro a loro, però in realtà gli mette ancora più paura. E quindi gli apostoli sono sconvolti dalla paura. E subito lui però a quel punto si manifesta e dice: coraggio, sono io, non abbiate paura. Ecco, io mi vorrei soffermare su questa frase: coraggio, sono io, non abbiate paura. E salì sulla barca con loro e il vento cessò. Ecco, coraggio, che cos'è il coraggio? Coraggio è una parola che è composta dal cuore e dall'azione. Coraggio è il cuore in azione. Una persona che ha coraggio è una persona che è pronta ad andare avanti, che è pronta ad affrontare le difficoltà, che è pronta a mai tirarsi indietro. Poi dice: coraggio, sono io, sono io. Questo sono io in italiano non rende l'espressione ebraica, che invece corrisponde a sono Dio, perché dire da parte di Gesù sono io, e sappiamo che Dio quando si manifesta a Mosè dice: io sono colui che è, io sono colui che sono. Ecco, quando Gesù dice agli apostoli: coraggio sono io, usa la stessa espressione che Dio usa per definire se stesso. Quindi coraggio sono io, e Gesù sta dicendo coraggio, cioè abbi il cuore in azione perché? Perché io sono con te, quindi non aver paura, io sono con te. Allora anche a noi oggi il Signore ci dice la stessa cosa, anche noi siamo chi in un modo, chi in un altro, in un periodo di prova, in un periodo di sofferenza, in un periodo di tribolazione, e se non è direttamente noi, sicuramente conosciamo persone immerse proprio in problemi e difficoltà che sembrano insormontabili. Allora facciamoci coraggio anche noi e facciamo coraggio agli altri e diciamo appunto coraggio sono io, non abbiate paura, cioè diciamo coraggio, abbi il cuore forte perché? Perché Gesù è con te, perché Dio è con te e quindi non avere paura. Il coraggio è una virtù che è composta di diversi aspetti, cioè composta il coraggio sia la fortezza dell'anima, sia l'idea di saper sacrificare qualcosa e sia la generosità. Questo è il coraggio. Il coraggio è la forza di andare avanti. Non perché si è necessariamente robusti e abili a difendersi, ma perché si ha la capacità di appoggiarsi a qualcuno che non vacilla mai. Allora, ecco questo che il coraggio non è qualcosa che prescinde dalla paura, che è libero dalla paura, anzi, il coraggio talvolta convive con la paura, ma è qualcosa che ci dice che c'è qualcosa in più della paura, qualcosa di più grande della paura. E per concludere vorrei leggervi questa frase. Coraggio non vuol dire avere la forza di andare avanti, ma di andare avanti anche quando non si ha nessuna forza. Coraggio non vuol dire avere la forza di andare avanti, ma di andare avanti anche quando non si ha nessuna forza. Buona giornata.